Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Si dice, quello che sono oggi lo devo al mio ieri. Io ho impiegato un po' di anni per arrivarci. Tra pochi giorni ne compierò 47. Sono Davide e vivo a Mozzo, in provincia di Bergamo. Mi chiamo Davide Bonandrini, ho 47 anni, vivo a Mozzo, un paese vicino a Bergamo. Come lavoro importo e distribuisco biciclette. Tutti ormai lo conoscete, quel monologo famosissimo di Steve Jobs, tenuto alla facoltà di Stanford durante il discorso di laurea, in cui tra le altre cose parla di unire i puntini. Ecco, ve lo ricordate? Mettetelo da parte, perché non parliamo di quello oggi, non parliamo di unire i puntini, parliamo di un'altra cosa, parliamo di punti, parliamo di punti critici della vostra vita. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08 di un lunedì qualunque, 16 settembre 2013, abbiamo come al solito aperto il profilo Facebook del programma, aperto in che non abbiamo aperto ieri, abbiamo aperto sugli schermi. Voi siete qui, Radio 24, il profilo Twitter che gestisce Margheritaina di là dal vetro. Punti critici, perché la storia di Davide parla proprio di quello, parla di un momento, alcuni probabilmente li potrebbero chiamare momenti più che punti, giornate, secondi, ore o mesi, per alcuni sono anni, in cui in qualche modo la tua vita è cambiata, ha preso una piega diversa, magari non in maniera evidente, magari in alcuni casi sì, ti è arrivata un'offerta di lavoro, sei andato a vivere in Australia. Il punto critico è stato tra l'offerta e la decisione, però poi la tua vita è cambiata radicalmente. In altri casi invece la vita magari non è cambiata in modo così evidente per tutti, però qualcosa dentro di te si è piegato, si è stortato, insomma ha preso un'altra direzione. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radi24.it. Pietro, bisogna dire che con questo schermo gigante che hanno messo io non vedo più il numero degli sms, che è sempre il solito, però ogni tanto 349-238-6666, si può alzare un pelo magari esattamente sotto la tua faccia. Esattamente la storia ad esempio di Laura, che dice: il mio punto è durato un anno e mezzo, una depressione che mi ha fatto smettere di fare quello per cui stavo studiando. Quando sono guarita, non sapendo che fare nella vita, ho fatto un anno di servizio civile volontario. Lì ho incontrato il padre delle mie figlie, che immagino prima di diventare padre delle tue figlie fosse semplicemente il tuo fidanzato. E poi, volendo cambiare ambito lavorativo, ho iniziato per caso a fare un lavoro che ho scoperto e mi piace da morire e continuo a farlo. Appunto, come Laura, come il caso di Laura possono essere mesi, anni, come invece il caso di Federico, il mio punto critico è stato quando mi hanno bocciato la seconda volta ad analisi. Dannati integrali. Parliamo di ingegneria qui, immagino, no? Di solito analisi è per lo più matematica, fisica, però più, mi piace immaginare che sia un ingegnere lui, non so perché, Federico, forse perché ne parlavamo prima con Tiziano a proposito di punti critici, no? Oggi è una giornata, insomma tutto il mondo, come direbbe un giornalista, tutto il mondo oggi guarda l'isola del Giglio per via di questa immagine che comunque ha qualcosa di estremamente affascinante, di questo relitto ormai che si stanno raddrizzando, stanno cercando di raddrizzare. Al momento sembra fuori, un po' sembra fuori. Ecco, questo è sicuramente un punto critico per, direi, per gli abitanti dell'isola e anche per gli ingegneri. Quindi la parola chiave è un po' punto critico, ma anche un po' piano B, o meglio non c'è il piano B, perché essendo ingegneri giustamente tocca il piano B, a noi funziona tutto, noi raddrizziamo qualsiasi cosa. 349-238-6666. Nella seconda parte del programma abbiamo un ospite che ormai potremmo definire un amico del programma, che è una roba orribile, sai, proprio un amico del programma, non è un amico del programma, è un amico nel senso che lo conosciamo da tempo e che faceva la radio tempo fa, adesso è passato alla televisione, lui ha avuto probabilmente un punto critico di passaggio. È Costantino della Garardesca, in diretta più tardi dopo la borsa, per parlarci di questo e di molto altro. Stiamo qui però perché ogni giorno raccontiamo una storia, ogni giorno raccontiamo qualcosa che riguarda una persona, e questa storia parla di Davide. Si dice, quello che sono oggi lo devo al mio ieri. Io ho impiegato 47 anni per arrivarci. Avevo, credo, 8 anni. Andavo alle scuole elementari. E a quel tempo ero un bimbo sicuro di me. Uno di cui avere rispetto, che piaceva alle bimbe. Da lì in avanti c'è solo il bimbo che si sente brutto, anche se magari non lo è, il bimbo insicuro. Dopo resta solo l'insicurezza. Non resta più niente di quello che ero prima. Un giorno, con un gruppo di amici, iniziamo ad andare al Lupim, che era ai tempi uno dei primi piccoli supermercati della zona dove abitavo, Loreto, un quartiere di Bergamo. Le prime volte, così, per la curiosità del vedere. Poi iniziamo a rubare delle piccole macchinine. Credo il marchio fosse Matchbox. E delle penne. E a casa ognuno di noi si giustificava coi genitori dicendo che erano un regalo dell'altro. Un giorno però uno del gruppo venne preso. Io no, io riesco a darmi la gambe. Ma lui parla e dice chi sono gli altri. Mi rifugio nel cortile dietro il bar dei miei, al tempo i miei gestivano un bar, dove mi trovavo di solito con gli amici. Il bar aveva la finestra del bagno che dava sul cortile e io dal primo minuto so che se mio padre mi chiamerà da quella finestra vorrà dire che sono arrivati a lui e lui arriverà a me. E così è. Mi chiama, saliamo in casa. Terzo piano, palazzo di fronte. Me ne dà tante, ma tante che per alcuni giorni al corso di piscina non riesco a sedermi sul bordo vasca. Ma me ne dà tante al punto che io per farlo smettere dico che ero stato obbligato dagli altri, cosa che non è vera. E da quel giorno il bambino brillante, simpatico, socievole, amato da tutti, scompare. Nasce il bambino che non si fida più di nessuno, ancora oggi, mai completamente. Nasce il bambino che a sua volta diventa traditore per necessità, ma comunque ai miei occhi traditore per non continuare a prendere botte. Nasce il bambino che da quel giorno ha una paura folle che gli diano del ladro. Il bambino che per la vergogna non riuscirà più a guardarsi allo specchio, che non si sentirà mai adeguato alle situazioni. E muore tutta la sua autostima. Non ho mai capito il danno che questa cavolata fatta a 8 anni mi ha causato. Ho dovuto andare da uno psicologo e piano piano siamo arrivati fino a qui, a questo punto. Io sono andato una prima volta 17 anni fa e siamo solo risaliti a un aspetto che era mio padre, cioè diciamo che tutto promanava da mio padre. Dopodiché non sono più andato ed è durata semplicemente 7-8 mesi. Poi ho ripreso psicoterapia 2 anni fa e siamo arrivati a questo punto. Diciamo, se si può dire che questa mia lettera è come se espiassi in pubblico tutto quello che mi sono tenuto dentro negli anni. Mio padre mi ha spiegato nell'unica maniera che probabilmente conosceva il significato del non rubare, con le botte. Botte che poi non mi ha mai più dato in tutta la sua vita. Io oggi cammino, mi sono costruito una posizione di successo, ho 3 figli con cui ho il terrore di ripetere gli stessi errori dei miei e una moglie splendida che mi sostiene. Resta però il bambino che ha paura, quello che non mi piace, quello che per avere una ragazza ha dovuto aspettare 20 anni. Oggi considero questa lettera e questa storia un gesto liberatorio. Dire a tutti che ho rubato a 8 anni è il mio modo di cercare di ripartire da quello che ero prima, senza guardare quello che sono stato fino ad oggi. Ho paura, ho un groppo allo stomaco che tuttora mi blocca, che per 40 anni mi ha fatto stare male e voglio che se ne vada. Una decina d'anni fa, un signore che si chiama Malcolm Gladwell ha scritto un libro che si intitola Il punto critico, i grandi effetti dei piccoli cambiamenti. Gladwell è un sociologo, è un giornalista e scrive per il New Yorker. Il punto critico per lui è quel livello oltre il quale un cambiamento diventa inarrestabile. Essendo un sociologo, lui parla dei cambiamenti che capitano ad un ampio numero di persone. Quei mutamenti che spesso si chiamano rivoluzioni e che covano lentamente e a un certo punto esplodono. Ed esplodono proprio a causa di un punto critico, appunto. Tipo l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando, ad esempio, e quindi l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Il punto critico, insomma, è quello che in linguaggio comune noi definiamo la goccia che fa traboccare il vaso, anche se a pensarci bene non è del tutto corretto, dal momento che una goccia in più, in teoria, un vaso trabocca di una sola goccia con quella goccia in più, mentre i punti critici danno via ad una vera e propria piena che esonda e travolge tutto. La storia di Davide parla di un punto critico privato e non sociale, ma il suo caso è di una nitidezza lampante. Avevo 13 anni ed ero nell'età in cui puoi diventare cose molto diverse tra loro, in base a chi e a che cosa incontri sulla tua strada. All'epoca giravo insieme a dei ragazzini di Novara che avevo conosciuto a scuola. Erano i primi anni in cui potevo prendere l'autobus del mio paese e andare in città da solo. Uno di loro aveva preso non so dove delle bombolette spray con cui scriveva sui muri cose senza senso. E non erano graffitari, Non c'era nessun intento espressivo. Era solo un modo per fare i cretini e vantarsi o riderci sopra. Io per qualche giorno avevo solo guardato e riso in maniera condiscendente per sentirmi parte del gruppo. Poi un pomeriggio mi capitò in mano una bomboletta ed era chiaro che avrei dovuto scrivere o fare qualche disegno sul muro. Raggiunsi un palazzo del centro della città, in una zona poco frequentata. Non feci nemmeno in tempo a far partire la vernice a spray che una signora corpulenta con in mano una scopa uscì dal portone insultandomi. Era la custode del palazzo, era straniera, non saprei dire di quale paese, ma dell'est, poteva essere ucraina o russa, aveva quella voce cadenzata e secca che hanno le persone che vengono da lì. Mi disse cose tipo che ero uno stupido, che non era divertente, che avrebbe chiamato i vigili. Lo fece con un tono così arrabbiato e perentorio che io ci rimasi di stucco, non ebbi il coraggio di dire nulla e scappai. Ero intimorito, ma ero anche infastidito da quel tono. E quando trovai gli altri, loro mi dissero che avrei dovuto tornare indietro e scrivere comunque qualcosa alla faccia sua. Feci finta di nulla e tornai a casa. Frequentai ancora quei ragazzi per qualche tempo, poi basta. Non posso dire che quella signora mi ha cambiato la vita, ovviamente. Eppure quel pomeriggio mi è stato di insegnamento in maniera piuttosto seria. Me lo ricordo bene. Ricordo bene lei, il suo tono e l'effetto che fece su di me. A pensarci mi dà ancora un po' fastidio il ricordo della sua voce, che mi fece sentire piccolo e stupido, perché ero piccolo e stupido. Ma mi ha fatto bene, credo. Mi ha fatto bene incontrare quella signora quel giorno. È stato un piccolo punto critico che non ha cambiato la mia vita, ma l'ha fatta pendere da una parte piuttosto che da un'altra. E forse fare un elenco dei punti critici della nostra vita potrebbe farci capire la strada che abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Poi questa non so se è la stessa teoria, quella del punto critico, rispetto a un'altra di cui parlo spesso con Alessandro Marcotulli, che lavora qui in redazione, che cita sempre questa teoria, credo hegeliana, che parla della quantità che si trasforma in qualità, cioè che è di fatto l'esempio più lampante quello dell'acqua che bolle, no? Per cui la temperatura cresce e a un certo punto la quantità di temperatura si trasforma in cambiamento di stato dell'acqua e l'acqua comincia a bollire, come dire, non bolle fino a quel punto e poi all'improvviso cambia stato. Non so esattamente cosa ho detto, avrei preferito ci fosse Marco Tulli qua a farlo, ma soprattutto Margherita Ina, che sta guardando da dove arriva e di chi è questa teoria. 349-238-6666, punti critici della vostra vita, piccoli o grandi, qualcuno la butta sempre in vacca, quando mi sono sposato ho perso tutta la mia libertà, e va bene, le cose si fanno in due però. Il mio punto critico invece, mi scrive uno che non si firma, è stato quando la mia società, venduta alla multinazionale, mi ha fatto fuori e ho dovuto ricominciare tutto da capo, e tuttora sto correndo. Invece c'è qualcuno che un punto critico l'ha vissuto tanti anni fa, aveva 8 anni, lui dice, e oggi, e forse oggi è un altro punto critico, con, diciamo, rendere pubblico questa sua storia, forse, non lo so, potrebbe succedere qualcosa, lo chiedo direttamente a lui. Pronto Davide? Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Sei sereno? Sì, molto, un po' di emozione naturalmente, ma molto sereno. Dove ti trovi adesso? Lavoro. Mi ricordi cosa fai esattamente? Sì, assolutamente. Noi distribuiamo biciclette, importiamo da vari paesi e distribuiamo nel mercato italiano alcune biciclette. Ma è un'azienda tua oppure ci lavori? Sì, è un'azienda che ho costruito, cioè un'azienda sì, è mia. Sei un imprenditore a tutti gli effetti, quindi? Parola grossa, non mi sento mai un imprenditore. No, non lo so, però cioè un'adeguatezza anche qua. Ah, ok. Hai una società, l'hai fatta tu, la tiri avanti tu, sei un imprenditore, giusto? Esatto. Senti, dimmi come va il mercato delle biciclette in questo periodo? Perché sai che c'è la teoria, no? Cioè, che ci vendono quotidianamente, che nei periodi di crisi come questo non si compra più, si aggiusta. E la bicicletta è un po' l'esempio, no? Che, per esempio, la bicicletta, magari ci avevi una gomma bucata, prima dicevi, vabbè, dai, ne prendo un'altra, adesso la aggiusti. È così oppure no? Assolutamente sì. Cioè, qui prendono sempre riferimento che si vendono più bici di macchine, ma nella realtà anche il mercato bicicletta ha subito una contrazione in termini assoluti, come credo tutti i mercati in questa fase di crisi. Quindi dimmi quanto vendevi prima e quanto vendi adesso, più o meno, in percentuale, quanto si... A pezzi circa un 20% in meno, è rimasta, diciamo, che la fascia medio-alta del mercato ha tenuto meglio della fascia medio-bassa. Ah, questo è un po' un classico, anche per uno che non sa nulla di economia come me, mi sembra evidente che le cose che costano tanto si continuano a vendere, quelle che costano di meno, un po' di meno, giusto? Perfettamente. Okay, sì. Anzi, forse le cose belle si vendono ancora di più. Vendi qualsiasi tipo di bicicletta, da corsa, da cross? Sono nato come mountain bikeista, per cui la maggior parte del mio business è dedicata alla mountain bike. Adesso stiamo cercando anche noi di cambiare strada su bici elettriche, bici da corsa, ma è molto complicato. È arrivato un messaggio giusto adesso, Davide, te lo leggo, dice così: io rubai alla Standa, si parla di questi supermercati all'epoca, non so se esistono ancora, la Standa direi proprio di no, la Standa non esiste più da mo', rubai alla Standa il giorno prima degli esami di scuola media, al tizio che mi aveva bloccato e portato nel magazzino, per chiamare i miei dissi: ma no, può darmi del tu, sono un bambino, e lui mi rispose: le do del lei perché lei è un ladro. Ci sono, insomma, questi episodi come questi possono essere accaduti, no? Tu però, Davide, l'hai proprio, diciamo, lo racconti come un momento chiave della tua vita. Sì, credo che lo sia, cioè non avere, cioè, la mia incapacità di rendersi conto che era una stupidata da bimbo, cioè io l'ho portata avanti per tutta la mia vita non rendendomi conto che era una sciocchezza. Cioè, oggi come oggi ne parlo tranquillamente anche alla radio ed era appunto la mia espiazione per dire: ricordatevi, chi è ancora in tempo è una cavolata, cioè ho fatto una cavolata che un bimbo di 8 anni può fare, cioè va tutto. Ah, ok, quindi la mia incapacità è stata quella di rendermi conto che era una cavolata da bimbo di 8 anni. Adesso invece è chiara questa cosa, nel senso che vista da fuori un po' a tutti sembra così, no? Sembra, vabbè, a 8 anni si fanno queste cose, tu ci hai messo semplicemente un po' più di tempo per accettarlo, per capirlo, questo è giusto? Che il problema è che in tutta questa fase prima di arrivare alla comprensione ci sono stati diversi problemi, perché non è stato, cioè non è tutto così semplice, cioè sì, adesso dico che è una cavolata, tuttavia se ancora oggi la preoccupazione di sentirmi dare del ladro ce l'ho ancora, la preoccupazione di non sentirmi mai adeguato ce l'ho ancora, non è che tutto adesso è risolto solo perché ne parlo in pubblico. Sì, sì, è chiaro, è un po' la teoria per cui uno si domanda, ma capire le cose mi aiuta a superarle? Dice, capire è un primo passo quantomeno. Sì, soprattutto rende, cioè io questo avvenimento al di fuori di una ristrettissima cerchia di amici, non lo conosceva nessuno, per cui... Beh, quindi non è da poco, questa puntata, direi, Davide. Ti ringrazio anche per avercela regalata in qualche modo. Dimmi se hai rivisto mai più i tuoi amici, quelli dell'epoca. No, assolutamente no. Cioè, ne ho avuto, sì, un pochino nella fase proprio subito dopo gli 8 anni, ma poi non li ho visti. Ma sicuramente se li rivedessi, il primo pensiero andrebbe ancora lì. E poco da fare. E poi ti saluto. Tuo papà è ancora vivo? Assolutamente. Hai un buon rapporto? Sa questa cosa? Gliel'hai raccontata? Sì, sì, assolutamente. Che per lui erano, come ho scritto, per lui era probabilmente, sai, vecchia generazione, pochi studi, l'unico modo di spiegarti è in modo che non sia equivoco. Certo, così è chiarissimo, esatto. Uno non si siede più sul bordo piscina per un po', è chiarissimo. Però, diciamo, poi anche lui adesso dice, vai, ma è una stupidaggine. Sì, sì, ma per lui probabilmente lo era ancora. Cioè, lui non sa, cioè, lui ha solo cercato di spiegarmi il concetto del non rubare, poi che fosse eccessivo come l'ha spiegato probabilmente lui non si è reso conto. Chiaro. Era normale. Comunque, se lo vedi, digli che il concetto è chiarissimo anche qua ormai, eh? Cioè proprio è arrivato pienamente. Davide, ti ringrazio davvero per la sincerità e la storia e la voglia di condividere. Buona giornata, in bocca al lupo. Grazie molto. Ciao. Voi siete qui. Non so se va in bicicletta Davide oltre a venderle, non l'ho capito. Credo di sì, di aver intrasentito una cosa che ha cominciato come mountain bikeista, ma ha esattamente la faccia del ciclista però, Davide, si vede solo il volto, è un primo piano, ed è completamente glabro, non ha un pelo da nessuna parte, né capelli, né barba, né baffi, nulla. Ha su degli occhialini leggerissimi e ha soprattutto il viso, il colore della pelle, un po' abbronzata da chi anche fuori stagione se ne sta al sole su una strada. Davide, se sei un ciclista bene, se non lo sei rimangio tutto quello che ho detto. Oggi considero questa email come un gesto liberatorio. Dire a tutti che ho rubato a 8 anni è il mio modo di cercare di ripartire da quello che ero prima, senza guardare a quello che sono stato fino ad oggi. 16:35 minuti, questa è Radio 24, il programma E voi siete qui. Una storia al giorno, una persona che ci racconta un episodio della sua vita, un episodio che gli sia accaduto realmente, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Una piccola storia che racconta qualcosa di voi. Voi siete qui, @radio24.it, questa è la terza stagione, continuate a inviarci storie perché noi continuiamo a leggerle e a raccontarle. Mi piace il messaggio di Lello che è arrivato, che è molto pragmatico, Lello. Per me è esagerato che Davide si sia definito un ladro a 8 anni. Ha fatto una ragazzata, ma andiamoci piano. Lello da Napoli. Lello, credo che sia esattamente qui il punto, cioè che lo stesso Davide è d'accordo con te, semplicemente che ci ha messo un po' per capirlo. Punto critico, quando ho perso la stima di mio padre, Marco, e poi Antonio, a 13 anni, quando ho trovato il coraggio di dire a mia mamma che non volevo più studiare da prete. Antonio, 59 anni. Alcuni blog che parlano di televisione hanno definito addirittura un punto critico, un punto di svolta per una corazzata come la Rai, dare un programma in prima serata, un programma, un talent molto importante, già molto importante l'anno scorso, a una persona come Costantino della Gherardesca. Siamo a Bressanone, nella clinica del dottor Guggenberg. In questo momento sono a 400 calorie al giorno e non ci vedo più dalla fame. Tant'è vero che sono convinto di essere in Vietnam. Pronto Costantino? Pronto Matteo. Come stai? Dove sei? Dimmi dove ti trovi, non sei in Vietnam, o sì? Non in questo momento sono a Milano, okay. Sono in Vietnam domani. Ok, perché questa sera, facciamo prima le cose fatte bene Costantino. Questa sì. Sera è la... terza puntata? Quarta? È la terza puntata, siamo agli inizi di Pechino Express. Che va in onda alle 21:10 su Rai 2. Benissimo, la soletta l'abbiamo fatta tutta, adesso ci spieghi anche che facciamo proprio una sorta di tutorial. Che cos'è Pechino Express? Pechino Express è un programma belga scritto da tale Ludo Poppe, un genio della televisione, dove 8 coppie che hanno relazioni diverse tra di loro, quindi che possa essere madre e figlio, fratelli gemelli, colleghi sul lavoro, cose così, hanno 1 euro al giorno per percorrere un lungo tratto e arrivare al, sopravvivere 10 puntate e arrivare in fondo. Ok, in fondo al viaggio. E vincere la gara. Chi arriva prima nella località, questa edizione è Bangkok, vince. E quindi, Costantino, poi come tutti in realtà i programmi, in realtà quello che interessa sono i rapporti che si creano, no, tra questi personaggi, immagino. Cioè la cosa più divertente è quella. Assolutamente sì, perché l'anno scorso c'era un rapporto stranissimo madre e figlio, fra Simona Izzo e Francesco Venditti, il figlio di Antonello, che ha divertito un po' tutti. Interessato. Senti Costantino, però veniamo a noi invece. Ma tu non ti sei stupito quando la Rai ti ha detto perché non conduci un programma in prima serata? Io sì, mi sono stupito abbastanza. Ero molto contento, però ovviamente. Beh, quello lo immagino. Il genere di reazione che avrebbe potuto avere, non so, una Flavia Vento piuttosto che la Ferilli da giovane. Cioè, cosa hai fatto? Mia madre, mi sono commosso, insomma. Certo, tutte quelle cose che se avesse avuto una telecamera puntata sarebbe adesso tipo una sorta di meme su YouTube, una roba del genere. Sì, sarebbe stato perfetto. Sì. Perché comunque, no, tu sei comunque un personaggio che la TV la frequenta da tanto, ok? Sì. Ha fatto, e mi piacerebbe che tu facessi ancora radio di grandissima qualità, quando facevi Dispenser, certo, insieme all'amico Federico Bernocchi che si aggira ancora per questi lidi e che prima o poi tornerà anche lui in onda da qualche parte. Sì. Dicevamo, per cui sei sempre stato un personaggio un po'... tra le linee, no? Tu so che tu non ti interessi di calcio, però un po' come Snyder, che non giocava né davanti né dietro, insomma. Sai cosa? Io ho molti difetti, però per quanto riguarda i media sono abbastanza aggiornati e sono sul pezzo. Oramai la RAI e i media, se tutti quanti, mandare in onda persone che non sono informate come fanno da anni e cose un po' slegate dall'intrattenimento internazionale, ha un po' stufato il pubblico, veramente. Il pubblico si sente preso in giro. Secondo me è fondamentale in questo momento storico, quando uno fa un programma televisivo, non sottovalutare il pubblico, perché online si guardano programmi televisivi di tutto il mondo. Quindi ci piace immaginare che con Costantino la RAI sta diventando un po' la BBC. No, non sta certo diventando la BBC, perché la BBC, a parte che io faccio intrattenimento leggero, però insomma sono una persona mediamente informata, contrariamente a chi solitamente mettevano a fare il, non so, gli opinionisti o conduttori dei reality, che erano, a parte la Bignardi, insomma, diciamo un pochino al di fuori dell'Europa occidentale. Occhio, perché non vorrei che ti sentissero, però adesso Costa. Lo so. Tu qual è stato il tuo punto critico della tua vita? Non so se hai ascoltato la storia di Davide, sì. che un giorno fa una cosa che adesso dire che abbiamo fatto tutti, no. Però che hanno fatto Io ho fatto una cosa che per me, Matteo, è stata, forse ho fatto uno sbaglio, forse no, ma io quando avevo finito il liceo, sì, mi avevano preso in delle ottime università, sì, mi hanno preso a King's College, che era a Londra, ma mi avevano preso anche per esempio St. Andrews in Scozia, okay, un'università che è in una parte completamente remota della Scozia dove non c'è nulla e tu puoi solo studiare. Ok. Lì. No? La mia scelta di andare a vivere a Londra è stata in realtà deleteria. Perché? Cioè, no, deleteria, perché poi tutto è bene quel che finisce bene. Adesso tu dirai addirittura conduco un programma. Siamo qui, esatto, al posto di Emanuele Filiberto, lo ricordiamo, no? Perché diciamo le cose come sì, stavano. L'anno scorso con la roba lì la conduceva uno che è un principe in pectore. Uno che è un principe in pectore e che ha anche una... una grande vita, vedi, lo spiegavo, non so chi è, qualche giornalista, secondo me Diego Passoni mi aveva detto una volta, tu funzioni in televisione perché non hai una vita, Costantino. Non so cosa voglia dire, però ed è vero, questa è una cosa che accomuna me come Barbara D'Urso, come con chiunque, dall'alto al basso, che lavora in televisione. Ma noi Filiberto è uno che ha una vita meravigliosa, figli, mogli, viaggio in giro. E quindi per il tu dirai che gliene frega di fare. Non è assolutamente certo adatto alla televisione. Uno deve essere un freak che vive solo per la TV. Hai mai rubato al Lupimo alla Standa, Costantino? Hai mai rubato qualcosa al Lupimo alla Standa? Perché il protagonista della storia di oggi ruba delle macchinine al Lupim, suo padre gliele dà di santa ragione e lui da lì la sua vita diventa... No, io no, però dentro Pechino Express, che va in onda stasera, ci abbiamo una ladra pazzesca che è la Marchesa dal Secco d'Aragona. Cioè, è una grandissima ladra e durante i reality ruba qualsiasi cosa. Ma tipo che cosa, scusami? Dovrete vedere. Ah, ok. Ecco, l'ultima cosa, Costantino. Un po' come un genitore, un po' come un maestro, sì, ce l'hai il tuo, ovviamente, il tuo concorrente preferito, no? Un pochino sì, ce li ho. Io amo molto la Marchesa e amo molto Francesca Fioretti. Ma stamattina leggevo sul Corriere che Corinne Clery picchia il fidanzato. Corinne Clery? Picchia il fidanzato, pensa che per l'appunto Aldo Grasso del Corriere ha picchiato pure lui, impazzito per Corinne Clery che picchia il fidanzato. Tra l'altro io credo di non avere mai, come in questa puntata, citato cose tipo Corinne Clery, Emanuele Filiberto, una contessa di non so dove, e tutto grazie a Costantino della Gherardesca. Costantino, ci vediamo stasera alle 9:30 su Rai 2. Grazie, 9:10, 9:10. 9:10, 21:10. Grazie. Ciao, Matteo, buona giornata, ciao. Grazie anche a te. Ciao, ciao. 349 238 6666. È con l'inno vietnamita che salutiamo e ringraziamo Costantino della Gherardesca, ma anche Alessandro Marco Tulli, che è venuto per sentire la citazione di Hegel che ci ha portato, ma che non farò in tempo a leggere perché devo chiudere. Ah, ecco perché non era Hegel, era Engels. Però Margherita mi ha postato una roba qua che dice di Hegel. Ho provato a leggerla, non ce la farò mai, se no ci chiudono e dobbiamo dare la linea a Roma. Intanto qui la Concordia viene su, lentamente viene su. È lenta, ma viene su. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte. Grazie soprattutto a Davide, perché la storia di oggi era la sua. E anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Giorgio di Santo Stefano Lodigiano. La storia di domani è la mia e parlo della passione per il grande fiume, la canoa. Questa è la mia storia e io sono qui.